però come Università di Siena ho fatto lavori per la Comunità Europea, per l'amministrazione provinciale di Arezzo, per cercare appunto di trovare lavori per la gente, per me, per non insegnare i libri. Cioè, lui è riuscito a inventarsi un corso in cui studiano le persone libro, capito? Sì, certo. Ma è bellissimo questo. Ma assolutamente, non solo, ma lì è venuto poi fuori. Là è il corpo, a quell'altra invece il movimento è il corpo. Comunque, no? Se non ci fossero questi progetti, queste cose, cioè io penso che sarei molto molto più frustrata. L'importante è che esistano queste cose, perché se no io sarei tristissima. Le voci che state sentendo sono quelle di Valentina Versano, fondatrice del blog 7x1, quelle di Chiara Di Domenico, ideatrice del circolo Lettori di Fortebraccio, e quella del professor Massimo Squillacciotti, docente di antropologia all'Università di Siena. Sono tre dei numerosi relatori che sono qui sul treno per andare a Firenze a presentare al Caffè Le Murate la Carta dei diritti della lettura che come Associazione Donne di Carta abbiamo ideato e stiamo portando in giro per l'Italia. Era importante rubare questo attimo intimo da backstage per far capire dal vivo una cosa speciale che sta accadendo in questo viaggio, che le persone che collaborano provengono da varie esperienze di o volontariato culturale o di lavoro istituzionale e che si ritrovano insieme in un progetto che oltre ad essere un tentativo di promuovere piacere della lettura è soprattutto un tentativo di costruzione di un modello di cooperazione completamente diverso. Il superamento delle barriere di casta permette di costruire insieme una visione più estesa del lavoro e dell'organizzazione della conoscenza e soprattutto fa delle esperienze diverse una ricchezza. Ci siamo trovati d'accordo su un punto, che una delle pecche più forti della nostra società è quella di non tener conto del problema vero dell'analfabetismo di ritorno. L'analfabetismo è un problema sociale oltre che un problema culturale, perché consente a tantissime fasce della popolazione di restare in qualche modo ai margini, e quando parliamo di fasce della popolazione parliamo sia della multiculturalità, che quindi non trova effettivo diritto di cittadinanza, così come parliamo di quelle fasce della popolazione italiana che sono restate ancorate al dialetto, sono restate ancorate a basi culturali piuttosto elementari e basse, che non permettono lo sviluppo pieno di una personalità critica e quindi libera e indipendente. L'impoverimento linguistico, la perdita di potere di senso delle parole sarà infatti uno dei punti centrali che trovano unite addirittura in questo viaggio che stiamo facendo l'Accademia della Crusca come istituzione e fino al nostro lavoro di puro volontariato culturale. È un concorso, quindi, quello che ci consente di mettere insieme tante energie e tanti aspetti per poter proprio portare avanti una lotta contro questo analfabetismo, quindi contro l'impoverimento della parola, la perdita di dignità, come la definiamo noi, la perdita di senso e soprattutto l'immiserimento della conoscenza. Se è un diritto rinunciabile della persona esercitare su ogni testo e su ogni oggetto di lettura la propria competenza linguistica, è chiaro che la nostra azione non vuole assolutamente mettere ai margini il valore del dialetto e il valore quindi di quella lingua che rende il senso di appartenenza a una comunità. Anzi, noi siamo qui per difendere anche grande patrimonio della memoria linguistica, storica, memoria come traccia che nella lingua si riverbera. Però è importante costruire continuamente competenze linguistiche che permettano a tutti i cittadini di tutte le etnie di poter accedere alla cultura e di poter scambiare con altre realtà comunitarie le proprie ricchezze di vissuto e di conoscenza. Sarà un'esperienza unica, credo, quella di riuscire a coinvolgere in questo viaggio di promozione della carta quindi soggetti ogni volta diversi. Dopo Firenze, il prossimo appuntamento, il 4 febbraio, è alla Biblioteca di Arezzo, dove la presidente della biblioteca, Sandra Rogialli, sta organizzando con il sindaco di Arezzo un evento di presentazione che coinvolgerà altre figure culturali, altri operai della conoscenza. E sempre saremo accompagnati dalle persone libro che incontreremo in ogni città, che porteranno come loro personale apporto scelte di pagine che su questa importanza della lettura come strumento educativo e formativo la letteratura stessa ha saputo donarci. Grazie.